Sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Recessione ancora grave, ma non è più caduta libera. L'Europa fotografa la crisi. Per l'Italia il PIL è in calo del 4,4%. La Fiat alla conquista della Germania dopo l'America Marchionne vola a Berlino per la Opel. Salgono a 4 i casi italiani di influenza suina, 2 già risolti. Il Messico pronto a ripartire mercoledì se tutto è sotto controllo. Il divorzio è una storia privata, dice Berlusconi. Veronica Alario promette: faremo tutto senza clamori, ma quanto è possibile? Per ora la vicenda è sulle prime pagine di giornali italiani e stranieri. Dopo i medici presi di spia nel decreto sicurezza, Fini scrive a Maroni. Fare la spesa a Rimini costa più che in tutto il resto d'Italia. Una mappa delle città più e meno care la fa il Sole 24 Ore. GR Extra Large, buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Anna Migliorati. The outlook that I will present to you today is still gloomy. Non siamo più in caduta libera, così il commissario europeo agli affari economici e monetari Joaquín Almunia ha decretato oggi, almeno per quanto riguarda le previsioni economiche europee di primavera, l'allentarsi della crisi economica in questa fase. Le previsioni, lo state sentendo, sono state presentate questa mattina. L'economia europea, si ammette, è nel mezzo della sua più fronda ed estesa recessione dal dopoguerra, ma la ripresa ci sarà il prossimo anno. Ma per tutti i dettagli e per quello che è anche il caso italiano, andiamo a Bruxelles da Enrico Brivio. Buongiorno Enrico. Buongiorno. Sì, un difficile 2009 aspetta l'economia europea, che secondo le previsioni di primavera della Commissione europea è destinata a contrarsi del 4% quest'anno, per poi stabilizzarsi nel 2010. Un po' al di sotto della media europea l'Italia, che con un calo del PIL del 4,4%, per tornare però a un più 0,1% l'anno prossimo a scenari non mutati. Sono queste le previsioni che sono state presentate poco fa dal commissario europeo agli affari monetari Joaquín Almunia. Almunia ha detto che l'economia europea è nel mezzo della più profonda e difficile recessione del dopoguerra, ma che però le misure prese dai governi e dalle banche centrali in queste circostanze eccezionali stanno frenando la recessione, e che quindi l'economia, come avete detto, non è più in caduta libera, anche se la disoccupazione è destinata ad aumentare in Europa dal 7,5 dell'anno scorso al 9,9 e all'11,5 l'anno prossimo. Per l'Italia Bruxelles indica un deficit del 4,5% quest'anno e 4,8 l'anno prossimo, e un debito che risale purtroppo al 113 quest'anno e poi al 116,1% a scenari immutati, tornando perciò agli livelli record della fine degli anni 90. Grazie Enrico Brivio. Questa è la fotografia dei numeri. Per quanto l'Italia c'è una storia particolare. Eh sì, ancora di economia parliamo, ma di industria e di Fiat in particolare, perché chiuso il dossier Chrysler. Sergio Marchionne, amministratore delegato di Fiat, è volato a Berlino per aprire il capitolo Opel. Il primo contatto per presentare il progetto è con i ministri dell'economia e degli esteri tedeschi. Sappiamo che l'accoglienza potrebbe non essere facilissima, allora andiamo subito in Germania con il nostro Beda Romano. Buongiorno Beda. Buongiorno. L'accoglienza non sarà probabilmente felicissima per Sergio Marchionne, che è oggi a Berlino per incontrare sia il ministro dell'economia che il ministro degli esteri. Il paese è abbastanza spaccato, almeno apparentemente in questo momento, tra i sindacati e i socialdemocratici da un lato, contrari all'ipotesi di una fusione tra Fiat e Opel, perché hanno fondamentalmente paura di tagli ai posti di lavoro, e dall'altro c'è una Germania invece più possibilista, che è quella ufficialmente del governo, il governo di grande coalizione guidato dal cancelliere Angela Merkel, è rimasto per ora estremamente cauto, non ha voluto prendere posizione, e oggi stesso il portavoce del governo ha detto che l'esecutivo valuterà le potenziali offerte per Opel. A questo però ho l'impressione che negli ultimi giorni evidentemente la fusione Chrysler-Fiat, o l'accordo fra queste due società, potrebbe cambiare a un certo potrebbe punto. Potrebbe avere rafforzato la figura di Marchionne da questo punto di vista. Potrebbe rafforzare la posizione di Sergio Marchionne, perché Sergio Marchionne a questo punto non è più a capo di una semplice società italiana, è a capo di un grande gruppo italo-americano, euro-americano per molti aspetti, e quindi questa ha sarà una, messo in moto un'arma in più, insomma. Una carta che peserà nei colloqui di oggi con le autorità tedesche. Grazie Beda Romano, naturalmente aspettiamo ancora che qualche notizia esca e si sappia qualcosa. E potrebbe esserci già nel primo pomeriggio, ma per ora non è confermata, già una prima conferenza stampa. Di certo, se Marchionne non è atteso a braccia aperte in Germania, dicevamo, la situazione è ben diversa, perché in America la forza del lingotto sono state le auto ecologiche e Obama si è detto da subito ben favorevole all'arrivo della Fiat. In Germania dunque quali potrebbero essere invece i modelli e le tecnologie che potrebbero essere vincenti per il mercato tedesco? La domanda la giriamo al professor Paolo Malagodi, analista del Sole 24 Ore. Benvenuto. Allora, qual è la forza Fiat, professor Malagodi? Essenzialmente è un discorso di fortissime sinergie tra l'attuale produzione Opel e quella Fiat. Si pensi che grande punta e nuova corsa sono sviluppata la prima sullo stesso pianale GM poi utilizzato da corsa, mentre l'utilitaria Opel fa leva su un'alle con motorizzazioni 1.3 diesel multijet della torinese. Mettendo assieme le vendite 2008 di corsa e di grande punto della famiglia punto, si superano le 600.000 unità, pensando che Golf, la vettura più venduta a livello continentale, ha fatto 460.000 unità. Questo già dà un'idea. Poi una Volkswagen che a livello europeo fa il 20% ha un timore di vedersi assieme Opel e Fiat, che farebbero un 17-18%. Diciamo, insomma, qui siamo più al mercato che alle tecnologie in quanto a forza. Beh, diciamo che le tecnologie attualmente sono molto simili, sono due aree geografiche che sono identiche, quella europea e oltretutto la unione per un certo periodo, le joint venture di General Motors e di Fiat per quanto riguarda lo sviluppo di motori e pianali hanno prodotto già dei risultati analoghi a quelli che dicevamo prima. Ad esempio i motori 1.9 multijet di famiglia Fiat sono oggi utilizzati su Opel Astra come sulla stessa Saab, che è anche esso marchio GM. Ci sono delle integrazioni, ad esempio, che Fiat potrebbe avere dall'utilizzo di un'eccellente Opel Insignia, Car of the Year 2009, che è vettura del segmento D, nel quale Fiat ha una carenza assoluta della Lancia Tesis e la 159 ha dei lentissimi sviluppi di sostituzione. Quindi è un'integrazione di prodotti di sovrapposizione. Sono due marche simili, si possono gestire in parallelo. PSA lo insegna con Peugeot e Citroën, che avendo identici prodotti e identici target di clientela hanno due reti commerciali separate e continuano tranquillamente il loro ruolo a livello europeo senza sovrapposizione alcuna. Grazie allora anche al professor Paolo Malagodi. Questi dunque i punti di forza che, su cui Fiat dovrebbe basare la propria strategia per l'alleanza con Opel. Adesso ci occupiamo invece dell'influenza arrivata dei suini, perché il bollettino oggi parla di 985 casi notificati all'OMS. I paesi colpiti, tra cui l'Italia, sono 20. In Italia a Massa sarà dimesso oggi il primo malato italiano, mentre l'altro caso, il giovane romano, già guarito in isolamento a casa, solo in via precauzionale. Però ci sono anche altre notizie. Sì, perché tra le molte reti che l'Italia ha attivato c'è anche quella dei 27 laboratori di analisi, quella della rete Influnet, attivata in Italia per raccogliere e analizzare tutti i vari campioni clinici prelevati dai casi sospetti. Insomma, c'è qualcuno a cui tocca verificare se davvero i casi sospetti sono reali. E in diretta con noi c'è la coordinatrice dei laboratori di analisi, la dottoressa Isabella Donatelli. Buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto, quanti sono allora i casi certi italiani? Cerchiamo di fare chiarezza. I casi certi italiani, cioè confermati dal nostro laboratorio sulla base dei primi test eseguiti da uno di questi 27 laboratori a cui lei ha accennato, sono adesso 4, perché possiamo aggiungere a quelli che lei ha appena citato altri 2 casi. Nuovi di oggi, quindi, una novità di queste ore. Appena confermati, diciamo, confermati mezz'ora fa nel mio laboratorio, e che si riferiscono ad un bambino di 11 anni che si trova attualmente ricoverato all'ospedale Bambin Gesù di Roma e una ragazza di 16 anni ricoverata stata presso lo Spallanzani. In entrambi i casi i primi accertamenti diagnostici sono stati eseguiti presso il laboratorio dello Spallanzani e da noi confermati appunto oggi. Dottoressa, sono due ragazzi giovanissimi, erano stati in Messico o hanno contratto l'influenza in Italia? Sullo stesso aereo, sullo stesso volo di ritorno dal Messico alcuni giorni fa. Del caso già verificatosi a Roma, quindi tre casi delle persone che si trovavano sullo stesso aereo. State controllando altri campioni di persone a bordo di quel volo? Sì, ce ne sono molti e che siano arrivati a noi, sono già arrivati a noi per la conferma, sono più di 30, diciamo dai 30 ai 35 campioni ancora in analisi. Quanto tempo ci vuole per avere le conferme? Diciamo che sia i laboratori periferici che noi abbiamo un po' di difficoltà perché non abbiamo, diciamo, gli strumenti adeguati che ci devono arrivare dal CDC, cioè lavoriamo con degli strumenti e dei reagenti che sono calibrati sull'influenza stagionale, però con una certa fatica in più stiamo comunque riuscendo ad arrivare ad una diagnosi certa di virus influenzali. Ecco, di questa nuova influenza H1N1. Da tutta Italia, grosso modo, quanti sono i campioni che vi stanno arrivando? Stanno aumentando nelle ultime ore? Stanno montando la segnalazione, in alcuni casi si tratta addirittura di casi neanche sospetti, cioè manca il link epidemiologico, non rispondono alla definizione perché capiamo che noi dobbiamo trattare, prendere in considerazione soltanto campioni che abbiano comunque un contatto con queste regioni in cui l'influenza sta girando, questa nuova influenza sta girando, quindi molti sono anche campioni forse presi per un eccesso di paura e quindi i veri campioni sono arrivati a noi una trentina. Perfetto, grazie. Mi pare di capire insomma che i casi confermati in Italia sono 4, notizia proprio di questi minuti, e sotto controllo ci sono tutte le persone a bordo appunto di questo volo proveniente dal Messico, dove sono stati registrati 3 dei 4 casi, giusto? Esatto. Grazie allora per essere stata con noi, la dottoressa Isabella Donatelli, coordinatrice dei laboratori di analisi che in queste ore stanno controllando i pazienti italiani considerati casi sospetti. E abbiamo detto più volte che la carne di suino non presenta naturalmente alcun rischio, però gli allevatori avvertono che insomma il rischio psicosi c'è e c'è già qualche segnale di rallentamento sul fronte delle vendite. Sentiamo il presidente di Assosuini, Maurizio Ferri. In Italia assolutamente no, da noi gli allevamenti vengono lavati, disinfettati, puliti per biosicurezza, quindi parliamo di tecniche di allevamento all'avanguardia, allevamenti molto moderni, molto funzionali. L'unica ricaduta è la riduzione abbastanza impegnativa dei consumi, che ha portato a una riduzione dei prezzi del suino con dei danni economici importanti, in quanto eravamo già sotto i costi di produzione, quindi per l'ennesima volta a pagare è la sicurezza, insomma, diciamo, gli allevamenti italiani oggi, che sono quelli sotto gli occhi degli enti di controllo, sono quelli che stanno perdendo in maniera smisurata. Ecco, guardi che il comparto rappresenta 130.000 posti di lavoro, 130.000 famiglie coinvolte, ne chiamo assolutamente che questo settore se ne vada a carte 48 e le DOP vadano a ridursi. Già oggi gli indirizzi, diciamo così, di parte degli allevatori è fuori dal prodotto di origine protetta, quindi diventa un'alimentazione e un allevamento di natura europea, non più di tutela dell'italianità del maiale italiano. E la crisi ora sbarca anche a teatro. Uno spettacolo prodotto da Business School di Manager Italia e Confcommercio. L'autore Luciano Ziarelli, esperto di management emozionale. Il titolo è La liquidazione, mette in scena la storia di un manager in crisi. Questa sera a Milano al Teatro San Babila con Andrea Brambilla, lo Zozzurro della TV. Lo ha intervistato Marta Cagnola. Se sono riuscito a entrare in un mondo, quello manageriale, quello di un certo tipo di lavoro, che io non conoscevo se non avendone sentito parlare. Ho cercato di entrare nei panni del manager cercando di capire qual era la situazione di questo manager nel momento in cui una persona che per 40 anni ha sempre lavorato e dedicato tutto, diciamo, all'azienda, si trova davanti una lettera in cui dice: guardi, lei ha raggiunto i 40 anni di contributi, forse è meglio che se ne vada. In una situazione di questo genere si è trovato anche mio fratello alcuni anni fa, dov'era appunto nella situazione che rappresento io. Dopo aver interpretato Francesco Ranalli, lei che idea ha di questo manager? Rappresento un manager, diciamo, umano, mentre se si parla di manager, si parla di industrie, l'umanità c'entra molto poco. Invece questo è un manager che a contatto con questa sua intelligenza emotiva, quella che ha incontrato un bel giorno, riesce a capire e a partecipare più umanamente anche a quelle che sono le risorse, i movimenti e tutto quanto riguarda il suo lavoro. E immagino che ci siano stati anche proprio dei veri manager nel suo pubblico. Che risposta ha avuto? Sono soprattutto veri manager che vengono a vedere questa pièce. Parecchi mi hanno detto mi sono rivisto nella mia situazione quando è successo a me. Suo fratello è venuto a vederla? Sì, mio fratello è venuto a vederlo e lui mi ha detto anche, beh vedi, tu dicevi che a me toccava solo a me, adesso è toccato anche a te in un altro senso, ma ti è toccato. Spero che poi la situazione di suo fratello si sia risolta. Sì, decisamente. 13:19 minuti, GR 24, extra large. Nella prima parte abbiamo parlato dei nuovi due casi di influenza suina in Italia. Si tratta di due ragazzi di 11 e 16 anni che viaggiavano sullo stesso aereo di ritorno dal Messico che aveva già trasportato un'altra persona, il secondo caso di influenza suina in Italia. Poi abbiamo parlato anche delle previsioni economiche che riguardano l'Europa. Del commissario Almunia ha detto che l'economia è ancora in recessione, però non è più in caduta libera. E abbiamo parlato anche di Fiat, dell'ipotesi di scorporo dell'auto per fare un'alleanza con la Opel. In queste ore l'amministratore delegato di Fiat Marchionne è a Berlino per incontrare le autorità. Adesso invece le notizie che riguardano il caso Veronica Lario. Silvio Berlusconi. Sì, perché dopo l'annuncio di Veronica Lario di voler divorziare dal marito Silvio Berlusconi in un'intervista al Corriere della Sera, il Presidente del Consiglio replica e accusa. Veronica è caduta in un tranello e io so da chi è consigliata, o meglio sobillata. Poi in un altro passaggio dell'intervista aggiunge: non è la prima volta che mia moglie mi attacca in campagna elettorale. E ne vogliamo parlare con Natalia Aspesi, giornalista. Buongiorno. Buongiorno. Firma di Repubblica, naturalmente, e cura una rubrica, La Posta del Cuore, ma insomma si occupa di costume e anche di argomenti come questo, che non sappiamo bene come prendere, perché Berlusconi ha detto: è una vicenda privata, il mio dolore è indiscutibile, non bisogna parlarne. Però è difficile non parlare di un Presidente del Consiglio che divorzia dalla moglie, tra l'altro anche con risvolti, come vedremo, anche politici. Io penso che un divorzio non è mai una cosa privata, anche per le persone che non hanno un nome, che non compaiono sul giornale, perché è una cosa che comunque riguarda gli amici, i vicini. Un divorzio è sempre qualcosa di pubblico, anche nel ristretto ambito familiare. Qui siamo addirittura a un Presidente del Consiglio a cui viene chiesto il divorzio. Il Presidente del Consiglio è una figura pubblica, lo è quindi anche sua moglie, e quindi non si può fare a meno di parlarne. Certo, magari di parlarne nei modi più giusti, più rispettosi, non tanto per i personaggi quanto perché comunque il divorzio è un momento difficile della vita delle persone. Tra l'altro non è un inedito, insomma, si è parlato di altre liti eccellenti tra mariti e mogli eccellenti come Clinton, poi c'è stato il divorzio tra Sarkozy e Cecilia. Certo, è stato abbastanza duro, se nei giornali francesi non parlavano d'altro. È il personaggio pubblico, anche se non è un politico, mettiamo anche un attore, comunque qualcuno di molto conosciuto, non può stupirsi dell'interesse della gente, che del resto che è questo interesse che ha fatto di loro delle persone pubbliche. Il fatto che la signora Lario abbia dato l'annuncio dopo la polemica sulle linee in lista, in qualche modo lei stessa l'ha portata sul piano politico. Berlusconi in qualche modo convince gli italiani, ma non la moglie? Ecco, credo proprio che sia così, cioè la capacità di Berlusconi di essere amato e seguito è indubbiamente non solo molto grande, ma in continuo aumento, mentre evidentemente la moglie lo conosce meglio e allora può giudicarlo. E tra l'altro la lasciamo all'ambito privato. E ringraziamo anche Natalia Aspesi per essere stata con noi. Grazie. Grazie. E c'è anche una notizia di poco fa, perché c'è il commento del segretario del Partito Democratico Franceschini, che chiede che il premier Berlusconi smetta di attribuire le responsabilità del suo divorzio della moglie Veronica Lario alla sinistra. Arrivando a Malpensa poco fa, Franceschini ha detto: Berlusconi la smetta di dire subito di dire questa cosa patetica, che ci sarebbe stato un complotto, che chi ha sobillato e preparato tutto sarebbe stata la sinistra. Da un divorzio all'altro, Mike Bongiorno, a cui Mediaset non ha rinnovato il contratto e che adesso lavorerà per Sky, ieri ospite in TV di Fazio, ha raccontato il suo doloroso divorzio dall'azienda di Berlusconi. Sono passati più di 5 mesi, non mi ha mai chiamato. Ho lasciato il messaggio, ho detto: guardate che voglio parlare con Silvio, voglio sapere cos'è successo. Non mi ha mai chiamato. Non è possibile. Uno che lavora 30-35 anni con un gruppo, di colpo sei fuori e nessuno manco ti saluta o ti stringe la mano. Alla fine una telefonata è arrivata, e proprio da Silvio. Ma ci è voluto questo sfogo pubblico di Mike da Fazio, quasi più accorato di quello di Veronica, perché il gran patron rimediasse a un'altra tempesta che gli stava finendo contro. Proprio a lui che con Bongiorno, nei primi anni 80, ha dato vita a un sodalizio granitico per lo sviluppo della TV privata. Come in tutti i grandi amori, anche qui, a passione finita, esplode la rabbia del tradimento. Neanche un messaggio, ti sei negato, proprio a me, che ero il tuo conduttore preferito. In uno strano contrappasso di vicende pubbliche e professionali, anche la versione di Mike, da granellino di sabbia, diventa frana travolgente, che alza ancora di più il polverone. Povero Silvio, quante separazioni amare. Comunque, devi fartene una ragione, a mandare in pensione Mike non ci è riuscito neppure il Papa. 3 milioni, questo nella foto è il latte del papà, giudicato buonissimo. Del papà, Mike. Allora, scusatemi, non è colpa mia, eh. Non mettiamo questa domanda nell'elenco delle gaffe di Mike Bongiorno, eh. Perché una volta dissi Pio X invece di Pio Decimo. Però qua siete voi, cari signori, perché papà si scrive con l'accento, no, credo, sulla A o no? È papa questo. Ok, e allora io che cosa avevo detto? Papà. Avete ragione. Che fenomeno. Dario Ceccarelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Il dibattito ora sul decreto sicurezza, previsto in aula per domani alla Camera, e alla vigilia parla nuovamente il Presidente della Camera Gianfranco Fini. Una lettera ha inviato al Ministro dell'Interno Roberto Maroni per chiedere chiarimenti su una norma del disegno di legge sulla sicurezza. Nel disegno legge sulla sicurezza, detto questa mattina tra l'altro Fini, c'è una norma per la quale ogni volta che ci si vuole interfacciare con la pubblica amministrazione occorre presentare un documento d'identità. Ma per un cittadino straniero occorre il permesso di soggiorno, la stessa norma per la quale era scaturita anche la polemica, ricorderete, sui medici spia. Ebbene, aggiunto Fini, arriviamo all'estremo che un bambino non potrebbe nemmeno frequentare la scuola dell'obbligo se i genitori non hanno il permesso di soggiorno. Insomma, scoppia la polemica questa volta sui presidi di spia. Queste sono questioni importanti, dice Fini, che non possono essere affrontate come se si distribuissero volantini in campagna elettorale. Ci vuole il rispetto delle persone umane, dei valori, come prevede la Costituzione, e occorre un confronto serio. Insomma, la sicurezza solleva continue polemiche, ne ha parlato oggi anche il capo della Polizia Manganelli in una lezione agli studenti. Sentiamo. Diminuiscono i reati commessi in Italia. La flessione registrata nel 2008 è continuata anche nei primi mesi del 2009. Fra gli italiani crescono però l'insicurezza e l'allarme sociale, legati in particolare a nuovi fenomeni come la criminalità straniera. Anche di questo ha parlato stamattina a Roma il capo della polizia, Manganelli, nella sua lezione alla scuola di perfezionamento per le forze di polizia. Manganelli ha ricordato che in Italia il 38% dei detenuti è rappresentato da immigrati irregolari, un terzo dei reati è commesso da clandestini, ma in alcune zone, per alcuni tipi di reato come furti in casa e borseggi, l'incidenza della criminalità straniera sale sino all'80%. Questo problema nuovo della immigrazione clandestina ha indubbiamente inciso nella sicurezza reale. C'è poi un problema, sì, di insicurezza percepita. Per fronteggiare questa insicurezza la polizia da sola non basta, ma in questo oggi qualcosa possono fare anche i sindaci, dice Manganelli, secondo il quale l'aumento dei poteri in materia di sicurezza urbana attribuito ai primi cittadini permette loro di rimuovere quelle situazioni di degrado che alimentano l'allarme sociale. Per questo, secondo Manganelli, il ruolo dei sindaci non contrasta, ma anzi è complementare con l'attività delle forze di polizia. Andrea Viali, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. GR24 extra large, le 13:33 minuti. Salgono a 4 i casi di influenza suina, 2 già risolti, altri 2 ragazzi contagiati a Roma erano di ritorno dal Messico. Il Messico pronto a ripartire mercoledì se tutte le attività saranno sotto controllo. Recessione ancora grave, ma non è più caduta libera. L'Europa fotografa così la crisi nelle previsioni di primavera. Per l'Italia il PIL nel 2009 è previsto però ancora in calo del 4,4%. La Fiat alla conquista della Germania. Dopo l'America, Marchionne vola a Berlino per conquistare la Opel. Il divorzio è una storia privata, dice Berlusconi. Franceschini dal premier, frasi patetiche, la smette di dire che la moglie è stata sobillata dalla sinistra. Dopo i medici, ora spuntano anche i presidi spia nel decreto sicurezza. Il presidente della Camera Fini scrive al ministro dell'Interno Maroni: occorre rispetto dei valori umani. Fare la spesa a Rimini costa più che nel resto d'Italia. Una mappa delle città più e meno care la fa Il Sole 24 Ore. Eh già, perché in Romagna la spesa sembra essere più cara che altrove. Un'inchiesta del Sole 24 Ore, oggi in edicola, mostra le forti differenze nel costo della vita nelle città italiane. Quelle del nord sono più care. Per un paniere di beni che comprendono pane, latte, olio extravergine di oliva, riso, pomodori, yogurt, uova, insomma tutta una serie di beni alimentari, si scopre che la spesa in un anno per un cittadino medio è a Rimini di 4.127 euro. Dall'altra parte della graduatoria, a Napoli, di soli 3.043 euro. E allora ne parliamo con Chiara Bussi, collega del Sole 24 Ore, che ha curato proprio questa inchiesta. Come avete lavorato? Come siete riusciti a risalire a queste differenze? Sì, buongiorno. Noi siamo partiti da una lista della spesa virtuale. Abbiamo individuato un paniere di 20 prodotti alimentari di prima necessità, quindi pane, latte, carne, caffè, biscotti. Poi, con l'aiuto del portale Osservatorio Prezzi del Ministero dello Sviluppo Economico, abbiamo individuato il prezzo medio per ciascuno dei prodotti in 57 città. Sono dati aggiornati a marzo e utilizzano come fonte gli uffici comunali di statistica. A questo punto abbiamo incrociato questi dati con i consumi pro capite di ciascun prodotto. Pensate ad esempio che ciascun italiano consuma, una media chiaramente, 66 kg di pane all'anno o 4,2 kg di caffè all'anno. Quindi abbiamo incrociato questi dati e abbiamo calcolato le spese familiari per tutti questi prodotti che avevamo elencato nella nostra lista della spesa. Abbiamo quindi scoperto che per uno stesso carrello a Rimini si spendono oltre 4.000 euro e a Napoli 1.000 euro in meno. Alcuni esempi: un chilo di caffè a Napoli costa in media 7,99 euro, a Rimini 3 euro in più, o ad esempio un chilo di pane sulla Riviera costa 3,75 euro, mentre a Napoli si può spendere anche 1,94 euro. Già in passato però erano emerse le differenze tra città del nord e città del sud. Questa volta ci sono delle ulteriori conferme, ma anche qualche sorpresa? Sì, infatti già in passato erano stati fatti degli studi. Uno di questi risale al 1996 ed è il costo del vivere di Luigi Campiglio, docente di politica economica alla Cattolica di Milano, che aveva ricostruito il costo della vita in 12 città. Qui emergeva una profonda spaccatura tra nord e sud in termini di costo della vita. La stessa spaccatura emerge nel nostro studio, ma ci sono alcune differenze in più. Vediamo nella parte bassa della classifica anche città del nord, come città toscane, come Firenze, Grosseto, o città di confine come Gorizia. Qui entrano in gioco altri fattori, come la concorrenza nella grande distribuzione, dove infatti è molto forte la grande distribuzione, c'è una concorrenza serrata, i prezzi vengono ovviamente tenuti più bassi. Questo serve da calmiere per i prezzi. Oppure nel caso di città frontaliere come Gorizia, gioca invece in questo caso la concorrenza con le città dall'altra parte del confine. Insomma, questi sono motivi per cui si può risparmiare e spendere qualcosa in meno. Grazie Chiara Bussi, collega del Sole 24 Ore, per essere stata con noi. Adesso... E salutiamo un ospite, ecco. A questo punto, il vice sindaco Maurizio Mellucci, assessore alle attività produttive. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Vi sorprende la notizia di essere la città più cara? Relativamente, nel senso che già altri indicatori nostri con l'Osservatorio di Prezzi ci davano una città più cara di altre nostre province limitrofe. E forse c'è anche una spiegazione, o meglio, due motivi. Il primo, già veniva detto, una scarsa concorrenza dalla grande distribuzione. Soltanto recentemente Rimini si è dotata di un iper e ha implementato la propria rete di supermercati oppure mercati al dettaglio importanti. E la seconda motivazione è che il nostro osservatorio dei prezzi non tiene conto di attività che operano in fascia turistica rispetto a attività che operano nella restante parte della città. Cioè, insomma, no, per i turisti costa un po' di più? Assolutamente sì. E anche per quei cittadini che però, vivendo contigui ai turisti, hanno gli stessi prezzi. Negozi svantaggio per turisti e negozi per cittadini di Rimini? Non necessariamente, infatti quel prezzo medio in aumento rispetto a Napoli di oltre 1000 euro all'anno per fare la spesa degli stessi prodotti non necessariamente è scaricato sulle tasche dei cittadini riminesi, che sanno benissimo quali sono i centri commerciali più convenienti dove fare la spesa. Altra cosa invece è la rilevazione dei prezzi, che ovviamente non tiene conto della dinamica che abbiamo in fascia turistica rispetto all'altra parte della città. D'altra parte noi siamo una delle città che è capoluogo di provincia, che ha 140.000 abitanti, ma che ha un numero di turisti particolarmente importanti e che quindi hanno un impatto rilevante. Stiamo parlando di circa 8 milioni di presenze turistiche all'anno. E quindi questo dato emerge in maniera eclatante nel momento in cui si fa una classifica oggettiva e ovviamente scientificamente corretta come ha fatto il Sole. E che sono quindi delle medie, va bene. Questa è la risposta allora del vice sindaco, assessore alle attività produttive di Rimini, Maurizio Mellucci. E poi è evidente che magari con un altro paniere di beni i risultati potevano anche essere diversi. Intanto però c'è chi, come il ministro della semplificazione Roberto Calderoli, intervistato dal Giornale, rispolvera una proposta che lega le retribuzioni e quindi al costo della vita sul territorio, le cosiddette gabbie salariali, che però non piacciono, continuano a non piacere al sindacato. Sentiamo. La proposta non è nuova e non lo è nemmeno la contrarietà del sindacato ad un rapporto così stretto tra territorio e retribuzioni. La CGIL, contattata da Radio 24, preferisce non intervenire. Sulla mancanza di particolari nella proposta Calderoli punta invece il dito il segretario della UIL, Luigi Angeletti. Mi piacerebbe sapere come dovrebbero essere organizzate. Qual è il confine geografico? I salari devono essere la conseguenza della ricchezza che si produce, quindi casomai devono essere legati alla produttività. Ed ecco il parere di Giorgio Santini della CISL. Noi rimaniamo adesso, diciamo, in una situazione di riforma della contrattazione che è molto aperta alla contrattazione nei luoghi di lavoro, decentrata nei territori, quindi va incontro a una linea di maggior peso del territorio, ma è una logica di collegamento stretto con la contrattazione collettiva e anche con l'andamento specifico delle singole imprese. Se c'è produttività va bene al sud come al nord e viceversa, quindi non accediamo alla logica delle gabbie salariali di tipo geografico. Enrico Pagliarini, GR24, Il Sole 24 Ore. Andiamo in Abruzzo dopo il terremoto. Stamattina all'Aquila, al punto sulle scuole danneggiate dal sisma. Sono 13 istituti superiori su 13, pensate, solo due quelli agibili, 4-5 potrebbero diventarlo con interventi non troppo complicati. Gli altri ragazzi in questi giorni vengono ospitati da scuole vicine, soprattutto gli studenti dell'ultimo anno che devono affrontare la maturità. Gli altri invece sono ancora a casa, anzi molti in realtà in tenda. L'assessore all'edilizia scolastica della provincia dell'Aquila, qui la Benedetto Di Pietro, lo ha intervistato questa mattina Maria Piera Ceci. Al momento ce ne c'è un'iniziativa così un pochino precaria all'interno delle tendopoli, le lezioni che vengono svolte lì. Poi noi abbiamo predisposto due tensostrutture che ha fornito il Ministero della Pubblica Istruzione, 16x20, dove si svolgeranno in parte delle lezioni e sarà anche la sede per i scrutini e gli esami di fine anno. Chiaramente siamo all'interno di una situazione che è ancora molto precaria, siamo ancora in una fase di emergenza, però allo stesso tempo si è fatta la riflessione sull'immediato futuro e quindi c'è un problema che per noi diventa estremamente importante, la modifica di una parte del decreto del ministro, del Presidente del Consiglio. Cioè, che cosa chiedete esattamente? Beh, chiediamo che se i lavori li fa l'ente proprietario, che ha la conoscenza storica degli edifici e che sa le caratteristiche, insomma, che quindi li ha tenuti in manutenzione ordinaria e straordinaria, probabilmente sa molte più cose di, che ne so, qualcuno che viene da fuori ad affrontare questo problema. Quindi volete che i soldi arrivino dall'amministrazione statale, però poi a gestirli siate voi? Oppure il pieno coinvolgimento delle amministrazioni locali. Ma accanto a questo abbiamo chiesto anche una task force di esperti strutturisti anche nazionali, dalle varie regioni, oppure da coloro che hanno già lavorato in situazioni di terremoto, tipo l'Umbria, il Friuli e così via, come supporto a questa azione. Se questa operazione riesce a partire i prossimi giorni, noi per quanto ci riguarda saremo in grado di far ripartire l'attività didattica già dal mese di settembre-ottobre. E a proposito di scuola, sono rientrati questa mattina, ricorderete, al liceo Darwin di Rivoli, in provincia di Torino, i 600 studenti ospiti di altri istituti dal 22 novembre, quando nel crollo di un controsoffitto morì un ragazzo di 17 anni. Un cedro a cui i compagni hanno appeso messaggi su carta di riso che si scioglierà poco a poco. Un cedro per ricordare Vito Scafidi, insieme ad un cippo all'ingresso della scuola e un francobollo. Così che i compagni di Vito, rientrati questa mattina fra le mura del liceo, potranno pensare a lui tutti i giorni, al suono della campanella. Era seduto al suo banco Vito quel 22 novembre, quando il controsoffitto è venuto giù e ha travolto ragazzi, zaini e quaderni. Diversi feriti. Lui ha avuto la peggio. Poi le polemiche. Quella scuola non era sicura, si sapeva. Quell'incidente si poteva e si doveva evitare. Il rimpallo delle responsabilità fra gli amministratori, la disputa sui soldi per l'edilizia scolastica che non sono mai abbastanza e i messaggi a distanza con la preside che non si fece sentire con la famiglia. Stamattina strappo ricucito. La stretta di mano fra lei e i genitori di Vito che però temono che si ritorni ad un copione già noto. Troppe tragedie come questa sono finite nel dimenticatoio, dice papà Fortunato. Vedrete che dopo l'enfasi dei primi giorni capiterà anche alla nostra. E poi ancora, non è la prima disgrazia di questo genere e certamente non sarà l'ultima. Questo è molto doloroso. Maria Piera Ceci, GR24, Il Sole 24 Ore. 13:47, GR24, Extra Large. Abbiamo parlato nella prima parte dell'influenza suina, sono saliti a quattro i casi italiani, due già risolti, altri due ragazzi di 11 e 16 anni contagiati viaggiavano sull'aereo che è ritornato dal Messico. E poi la situazione economica con le previsioni dell'Unione Europea, la recessione è ancora grave ma non è più caduta libera per l'economia europea, per l'Italia il PIL è in calo quest'anno del 4,4%, siamo andati in Germania a vedere come va la visita dell'amministratore delegato di Fiat Marchionne, che deve convincere SPD, governo e sindacati al matrimonio con la Opel. E poi le notizie sulla vicenda tra Veronica Lario e Silvio Berlusconi. Veronica Lario dice faremo tutto senza clamori, Berlusconi ribadisce una storia privata. Poco fa le parole del segretario del PD Franceschini, la smetta Berlusconi di dire che chi ha sobillato sua moglie potrebbe essere stata la sinistra. E saranno due indagini ad accertare la dinamica dell'incidente di ieri a Herat, in Afghanistan, in cui una ragazzina di 13 anni è morta dopo che l'auto su cui viaggiava, che non si è fermata all'alto, è stata centrata da colpi d'arma da fuoco sparati da militari italiani. La prima sarà della polizia afghana, la seconda della procura militare di Roma. E in Afghanistan ci sono in queste ore anche alcuni parlamentari italiani. Elisabetta Fiorito. Sì, è stato un tragico incidente, così il ministro degli esteri Franco Frattini ha commentato l'episodio dei soldati italiani in Afghanistan che ha causato la morte di una ragazzina di 13 anni. Per Frattini la situazione nel paese è mutata, ma ci sarà un'inchiesta e tutti gli accertamenti delle autorità militari e civili. L'episodio, assicura il ministro degli esteri, verrà approfondito. L'auto su cui viaggiava, l'avete ricordato voi, non si è fermata all'alto, è stata centrata da uno o più colpi d'arma da fuori sparati dai militari italiani. Ma intanto la maggioranza appoggia l'operato dei nostri soldati. Sentiamo Fabrizio Cicchitto, presidente dei deputati del Popolo della Libertà. I nostri soldati in Afghanistan stanno conducendo un'azione meritoria. Un incidente può sempre capitare in una situazione nella quale, tra l'altro, non sai mai se un'auto è piena di esplosivo oppure ha delle persone. Se quest'auto non si ferma, è certo che c'è il problema di fermarla, quindi è capitato uno spiacevole incidente che ha comportato anche la perdita di una vita umana e quindi come tale meritevole della massima attenzione. E dicevamo, una delegazione di parlamentari italiani guidata dal vicepresidente della Camera Maurizio Lupi è giunta proprio poco fa a Farah, nell'ovest dell'Afghanistan, dove si trova un avamposto dei militari italiani. Siamo riusciti a raggiungerli telefonicamente. Onorevole Lupi, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, lei è lì tra l'altro con i militari italiani. Cosa si sta facendo in queste ore e qual è la posizione del contingente italiano? Ma guardi, noi tra l'altro ieri eravamo ad Herat proprio per visitare le nostre forze armate e anche le opere che le nostre forze armate stanno realizzando qui ad Herat nella regione a noi data. E quando è avvenuto il fatto, devo dire che il generale ci ha subito informato prontamente di quanto è accaduto sentivo prima un'intervista all'onorevole Cicchitto, credo che anche delle modalità con cui drammaticamente questo fatto è avvenuto. Ieri abbiamo inaugurato un ospedale pediatrico realizzato dalle forze armate e dalla nostra cooperazione internazionale. Il paradosso è proprio stato che nel momento in cui inauguravamo un ospedale pediatrico, purtroppo drammaticamente moriva questa fanciulla. Onorevole Lupi, le chiediamo. Sì, c'è un attimo di ritardo naturalmente col collegamento satellitare. Le chiedevamo se proprio questa situazione che si è venuta a creare potrebbe in qualche modo avere delle ripercussioni, è naturale domandarselo, sul contingente italiano che sta operando meritevolmente, come raccontava lei, in Afghanistan. Però questo episodio potrebbe avere delle conseguenze? Io credo di no, anche perché abbiamo percepito nell'incontro con le autorità locali. Ieri noi proprio in contemporanea incontravamo il sindaco di Herat e il governatore, e io immediatamente ho espresso il cordoglio della Camera dei Deputati, la solidarietà al sindaco. Devo dire che sapeva già di quanto era accaduto. Il rapporto tra la popolazione, le istituzioni e le nostre forze armate è un ottimo rapporto. Contemporaneamente le nostre forze armate hanno ben coscienza del ruolo che stanno svolgendo per mantenere la pace e per aiutare questo paese non solo nella democrazia ma anche la popolazione a vivere in condizioni migliori di quelle che si trova. Pensi che drammaticamente il problema dei bambini in questa parte del mondo è pesantissimo, abbiamo percentuali di morti infantili altissime. E allora le nostre forze armate sono ben coscienti del lavoro che fanno, dei rischi che corrono nel mantenere la pace. Noi solo l'altro giorno c'erano stati altri attacchi ad Herat alle nostre forze armate da parte dei talebani. E quindi, insomma, voglio dire, la situazione resta pericolosa al di là di questo singolo episodio. Esattamente quello che voi avete visto. Grazie a Maurizio Lupi, vicepresidente della Camera, e naturalmente prosegue la missione italiana intanto in Afghanistan. Grazie per essere stato con noi. E salutiamo Giulia Crivelli, buongiorno. Buongiorno. Cominciamo con Newsweek oggi. Sì, la copertina di Newsweek è un grande contenitore di popcorn, di quelli che ci sono solo nei cinema americani. Da questo contenitore esce spumeggiante il popcorn e il titolo è La cultura della recessione. C'è un lungo articolo all'interno che si chiama Happy Days Are Here Again, quindi i giorni felici sono di nuovo qui, ma nel senso Happy Days, la serie che è stata una delle più famose e per gli standard di adesso era anche molto low cost da fare. E il senso dell'articolo è che c'è proprio una nuova tendenza a limitare i budget per qualsiasi nuova produzione, a limitare anche la lunghezza degli script, dei copioni, limitare anche l'uso delle star, tutto questo per fare dei prodotti anche a buon mercato che però siano soprattutto leggeri. E scherzando, anche guardando ai titoli che stanno avendo maggior successo al cinema, il Newsweek ammette non è certo una nuova nouvelle vague da cinema francese, però tant'è, insomma, in tempi di recessione si limitano i costi, si cercano di fare prodotti leggeri per non avere da deprimersi anche quando invece ci si dovrebbe svagare. Giulia, anche in Italia ci siamo appassionati ai divorzi eccellenti degli altri paesi. Agli altri interessano le cose di casa nostra? Ah, sì. sicuramente sì, adesso cominciano a esserci dappertutto su tutti i siti così gli aggiornamenti su questa vicenda tutta italiana del Premier Berlusconi e di sua moglie Veronica Lario. Sui quotidiani di carta stamattina, di quelli che ho visto, l'aveva solo El Mundo, il quotidiano spagnolo, però ripeto, su tutti i siti ormai si cerca, rincorrendo naturalmente le notizie che abbiamo in Italia, nessuno può avere delle esclusive, credo, su questo, quindi riprendendo le notizie che noi per una volta conosciamo in anticipo, viene seguita questa vicenda, che è comunque, come sempre, queste vicende di politica che si intrecciano con la storia personale dei personaggi di primo piano interessano molto, e tutto sommato forse ha anche un senso che si voglia sapere qualcosa del privato della persona a cui affidiamo il nostro paese. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large. Alessio Maurizio, Anna Migliorati in studio, il coordinamento di Maria Piera Ceci, in regia Filippo Aureggi. Le 13:55, l'appuntamento con Extra Large come sempre domani a partire dalle 13. Buona giornata. GR 24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.